Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Magazine 24, l'appuntamento il sabato e la domenica con i settimanali per le nostre segnalazioni. Consigliarvi qualche cosa da leggere, qualche cosa da approfondire. Questa settimana è in edicola 24, in edicola da ieri per la precisione, in vendita con il Sole 24 Ore. 24 è il mensile del Sole 24 Ore che, come sapete se siete abituali lettori di questo magazine, dedica ogni mese una serie di articoli attorno a un tema. Il tema di questa settimana è italiani. Tra l'altro 24 ha anche l'abitudine di annunciare il prossimo tema, cioè il tema di giugno, che sarà quello dei giochi, è il numero che vedremo in edicola il 24 di giugno. Ma concentriamoci su quanto è in edicola già da ieri. Eppur si muove è il titolo scelto dai redattori, dalla redazione di 24 per presentare il tema. Che cosa si muove? Si muove l'Italia, si muovono gli italiani che in qualche modo, anche sulla nostra abituale creatività, cercano nuove possibilità di lavoro, di sviluppo, di crescita, insomma. E infatti così spiega Fernanda Roggero nella sua introduzione: questo numero di 24 è dedicato agli italiani, all'Italia che funziona, quella degli innovatori, degli artigiani impareggiabili, dell'industria che riesce ad andare avanti, perché quando arriveranno i cinesi noi saremo già un po' più in là, come dice appunto Daniela Fantini, che fa rubinetti sul lago d'Orta. Old economy, scrive appunto Fernanda Roggero, cioè economia, se volete, di vecchio stampo, economia di oggetti solidi, per distinguerla dalla new economy, quella più basata appunto sulla virtualità, sui social network, dice old economy ma con i fiocchi. E poi via via ci sono una serie di storie che trovate spiegate naturalmente nelle pagine di 24, raccontate con dovizia di particolari, così riassunte nell'introduzione. C'è chi costruisce città con una stampante in tre dimensioni, o in realtà spiegano potrebbe farlo, per il momento ha realizzato arredi urbani e case prototipo. E poi c'è un piccolo Zuckerberg di casa nostra, si chiama Davide Marrone, è un comasco di 28 anni, ha inventato un sistema che praticamente azzera i costi dei messaggi via telefonino, una sorta di Skype ma per gli SMS, cioè i messaggini. La sua azienda è ospitata tra l'altro nei locali del Politecnico di Milano e ha oltre 700.000 utenti. Oggi offre anche una sorta di servizio di posta certificata, legal SMS, cioè SMS certificati. L'Italia che funziona, poi prosegue Fernanda Roggero, è anche quella che sa scommettere sul sociale. Esemplare la storia di Luciana Delle Donne, pugliese, visionaria e determinata, con un passato nel mondo delle banche. Ha creato Made in Carcere, un progetto in cui ha coinvolto delle detenute delle case circondariali di Trani e di Lecce. Queste detenute producono borse, cappelli, portachiavi, e ci sono marchi importanti che forniscono i tessuti, oppure si sono impegnati a esporre nei loro negozi i prodotti appunto realizzati con queste detenute, grazie appunto alla storia di Luciana Delle Donne. Questo, diciamo, il tema attorno al quale ruota 24 in edicola questo mese. Le storie, come vi dicevo, poi sono raccontate nei particolari via via nel numero. C'è una doppia pagina a cura di Enrico Marro, che fa sempre parte della redazione di 24, che riassume alcuni primati, insospettati primati italiani, perché nonostante un po' la nostra tendenza abituale a denigrarci, a ritenerci così poco competitivi, poco in grado di confrontarci con altri paesi magari meglio organizzati di noi, ebbene ci sono fior di industrie che sono in grado invece di essere primatiste mondiali. Scrive così Marro: non ci sono solo i rubinetti, gli yacht, le macchine impacchettatrici e i collan tra le punte di diamante del Made in Italy. Un recente studio della Fondazione Edison, che è stato elaborato su dati 2009, rivela una collezione ampia, a volte insospettabile, di gioielli del nostro export. Tra i prodotti di cui l'Italia ha la leadership mondiale ci sono, per esempio, gli ascensori, per un valore di 571 milioni di dollari, la carta igienica o carta per tovaglioli, 300 milioni di dollari in valore, le montature in plastica per occhiali e anche il vermouth. Ma scorrendo la lista verso il basso si trovano anche i ponti metallici, le pompe per calcestruzzo, la cicoria, le fette biscottate e altre, come le chiama Marro, sfiziose micronicchie. E vi leggo poi, nella doppia pagina ci sono alcuni esempi. Ad esempio siamo grazie a un'azienda che si trova a Imola, il primo esportatore mondiale di poltrone per i dentisti, perché questa azienda ha il primato mondiale di export delle poltrone per i dentisti, così come siamo i primi al mondo nella produzione dei tappi a corona per le bottiglie. E forse questo è più noto specialmente in giornate come dire in cui abbiamo seguito il Giro d'Italia, siamo anche i primatisti mondiali dei sellini per i ciclisti, dei sellini di altissima gamma, cioè sellini da professionisti. Li fanno praticamente tutti in un distretto, come si chiamerebbe, ci sono tre aziende che se ne occupano e sono primatisti mondiali. Altri primati naturalmente poi sono illustrati su 24 sia in questa doppia pagina sia nelle pagine del magazine che trovate da ieri con il Sole 24 Ore. E visto che parliamo di primati italiani, passiamo a un primato mondiale di tutt'altro genere. Secondo quanto avverte il numero di Focus già in edicola, siamo prossimi a superare la soglia dei 7 miliardi di popolazione. È difficile dire, spiegano nelle pagine di Focus, quando questo succederà esattamente, potrebbe essere domani, potrebbe essere il 31 dicembre, però gli esperti sono concordi, entro il 2011 la popolazione mondiale raggiungerà per la prima volta nella storia i 7 miliardi di persone. Non è male, scrivono sempre da Focus, per una specie come la nostra che 70.000 anni fa, dopo l'eruzione del vulcano Toba, contava a malapena 10.000 individui. Quindi in uno spazio di tempo relativamente ridotto c'è stata una impressionante crescita della popolazione. E come si fa a farsi un'idea di quanto vuol dire 7 miliardi? Focus fornisce alcuni spunti. Se vi venisse, ad esempio, la tentazione di contare da 1 a 7 miliardi, consigliano di non farlo, perché anche riuscendo a scandire un numero al secondo, questo non è facile poi quando si supera il milione, quindi la cifra diventa complessa, e anche ammesso che si riesca a continuare ininterrottamente per giorno e notte senza mai fermarsi, per arrivare a contare da 1 a 7 miliardi ci vogliono più di 200 anni, questo spiega Focus. Per ospitare tutti gli uomini del pianeta in uno stadio ci vorrebbe uno stadio grande quanto l'intera superficie dell'Italia del Nord. E se volessimo percorrere invece 7 miliardi di chilometri, ecco, arriveremo praticamente su Plutone, si spiega, con benzina per 7 miliardi di chilometri, se usassimo, immaginiamo, una 500, ma in 3 miliardi di giorni. Allora, abbiamo rinnovato il nostro stacco musicale che utilizziamo per separare gli argomenti, per separare le segnalazioni. Forse qualcuno ha riconosciuto la tromba di Miles Davis. Miles Davis, che è il secondo dei CD, il secondo protagonista dei miti del jazz a cui sono dedicati i CD che stiamo proponendo ogni giovedì con il Sole 24 Ore. Ricorderete che il primo volume è stato dedicato a Ella Fitzgerald, il secondo volume appunto lo trovate da giovedì in vendita con il Sole 24 Ore, Miles Davis e la sua memorabile tromba. Non so se possiamo sentire ancora un pezzettino, faccio un cenno a Filippo Aureggi che sta in regia, così ci accompagnano le note di Miles Davis fino alle informazioni per il traffico. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Vi stavo parlando di primati della popolazione. La popolazione, secondo gli esperti, supererà i 7 miliardi sulla Terra entro quest'anno, entro il 2011. Accanto al tema appunto della crescita della popolazione c'è il tema della decrescita. Cosa significa decrescita? Significa far bastare le risorse per tutti. E attorno a questo tema si sta discutendo, si sta animando un dibattito che comincia a trovare trovare un po' di spazio anche sui settimanali e sui mensili. Ad esempio, su Focus, leggevamo appunto la vicenda della popolazione, ma su Focus, nelle stesse pagine, c'è anche una intervista a Serge Latouche. È un economista, un filosofo francese, ha 70 anni, si definisce come nemico del consumismo e dello sviluppo. Lui propone una decrescita economica ed energetica, cioè crescere meno per vivere meglio, così viene sintetizzata la sua intervista, la trovate sul mensile Focus. Un altro approccio alla decrescita è anche quello di vivere con meno, se volete. Su Famiglia Cristiana questa settimana, a cura di Giusy Galimberti, la segnalazione di un libro provocatorio di un americano che si chiama Dave Bruno, il cognome tradisce le sue origini siciliane, ha scritto un volume che si intitola La sfida di vivere con 100 cose, la sfida delle 100 cose. Cosa sta a indicare, cosa vuole dirci, insomma, con questo volume? Che in effetti siamo spesso circondati da oggetti di cui non abbiamo tutta questa necessità. Forse potremmo davvero ridurre il nostro stile di vita in pochi essenziali oggetti, riducendo così appunto anche l'impatto che abbiamo sull'ambiente. Non è, come sappiamo, un tema molto semplice. Consumare meno significa anche poi produrre di meno, ma produrre di meno significa anche ridurre le opportunità lavorative, quindi il bilanciamento tra le due esigenze è molto molto difficile, e infatti per questo, insomma, se ne parla, se ne discute, e come vi dicevo anche sui magazine troviamo traccia di questo dibattito. Le 100 cose di Dave Bruno gli hanno portato comunque una notevole notorietà, ha già 1 milione di fan che lo seguono, a un blog, naturalmente è su Facebook, gli chiedono consigli, spiega a Giusy Galimberti su Famiglia Cristiana, chiedono consigli, vogliono emularmi, vogliono vincere la mania di comprare, di accatastare. Lo shopping è per molti una droga e anch'io pensavo di non poter vivere senza acquistare. Ero vittima della pubblicità e di una cultura che induce a pensare di contare agli occhi degli altri non per quel che siamo, ma per quello che possediamo. Questa è l'assunto filosofico da cui muove poi il lavoro di Dave Bruno. Lui indica anche un po' gli oggetti indispensabili che ci fanno capire che non si tratta di una sorta di luddismo di ritorno, cioè di un'avversione per la tecnologia o per il progresso. Infatti spiega che tra i suoi 100 oggetti ci devono essere sicuramente l'automobile, ci deve essere il cellulare, una macchina fotografica digitale. È utile sicuramente un computer, è utile un hard disk esterno, cioè un posto dove immagazzinare i dati, i film, i libri, le foto, eccetera. Tra i capi d'abbigliamento, le t-shirt, le magliette, però anche la giacca e cravatta. Ma allora a che cosa poi si potrebbe rinunciare? Qui c'è su Famiglia Cristiana un elenco molto limitato rispetto appunto alle migliaia di cose a cui probabilmente dovremmo rinunciare per accontentarci di 100, ed è costituito da, ad esempio, foto, videocassette, DVD e CD. Non perché, si spiega, il signor Bruno sia contrario a questo tipo di supporto, ma perché possono essere sostituiti da archiviazioni, ad esempio, nel computer, che consentono di eliminare questi oggetti. Il televisore, l'amato odiato televisore, è uno degli oggetti quotidiani a cui la gente sente di poter rinunciare. Mi fa piacere dirlo, perché spero che invece la radio figuri nella lista dei 100 oggetti a cui Dave Bruno dice di non rinunciare. Comunque il televisore pare che sia uno degli oggetti quotidiani a cui la gente sente di poter rinunciare, perché in fondo i film, i documentari si vedono al cinema, si vedono al computer, per i notiziari c'è internet, aggiungo io, per le notizie c'è la radio, mi permetto di integrare così. E poi un'altra regola può essere quella di chiedere, sollecitare, pregare gli amici, i parenti di evitare regali inutili. Inutile cercare di eliminare se poi si continua a ricevere. Infine un'altra regola che viene dettata, che viene consigliata, quella di eliminare sempre qualcosa quando si compra un oggetto nuovo. Questi ritorni di sobrietà, in qualche modo, che sono stati anche indotti dalla crisi economica, che poi ha avuto dei riflessi pesantissimi dal punto di vista lavorativo e produttivo, ebbene questi ritorni di sobrietà però rischiano di farci dimenticare l'altra faccia della medaglia, che ad esempio viene raccontata dall'Espresso in un'inchiesta che si intitola Oggi vado a non lavorare, un'inchiesta affidata a Emiliano Fittipaldi, e che racconta appunto le difficoltà di chi si è ritrovato, si ritrova senza lavoro e cerca di rientrare nel mondo del lavoro, ma per i più disparati motivi, la stessa età ad esempio, o per altre questioni, non ci riesce. E quindi appunto si racconta che si fa quando si va a non lavorare, che cosa si può fare. Interessante, nelle pagine che ospitano questa inchiesta, un box in cui l'Espresso ha fatto una verifica sul campo e hanno provato a rivolgersi a un'agenzia per cercare lavoro e hanno fornito un curriculum che, così a leggerlo, sembra un curriculum appetibile. Ci hanno provato per 3 settimane, spiegano, a colloquio in una decina di agenzie. Il curriculum prevedeva una donna di 30 anni, laureata con 110 lode, capace di utilizzare il personal computer, capace di parlare inglese e spagnolo, con esperienza di traduzioni, redazione di articoli, segreteria di studi professionali. Già, spiegano l'Espresso, gli annunci nelle vetrine non sembravano molto consoni, perché si cercavano un medico del lavoro per 6 mesi più eventuale proroga, un addetto al recupero crediti per 2 mesi più eventuale proroga, una persona esperta in analisi di marketing per sostituzione maternità, un impiegato per la logistica, un contabile anche qui con contratto di 3 mesi. Sulla piazza, continua l'Espresso, sulla piazza i più popolari sono insomma i mini contratti da 2-4 mesi. Se qualche tempo indeterminato esiste, spesso è riservato a categorie protette. Ecco che cercare semplicemente un lavoro è quindi inutile, visto che le aziende non hanno tempo né soldi per formarti, prosegue l'Espresso, devi candidarti per una posizione specifica con competenze definite e dettagliate. Tra l'altro si consiglia di non lasciare niente di sottinteso nel computer, perché, come riferiscono gli stessi addetti a queste agenzie, non c'è molta flessibilità. Il contabile deve aver fatto il contabile, la receptionist la vogliono già esperta, il commesso lo preferiscono senza laurea e si preferisce magari il diplomato, ma che abbia già lavorato in negozio. E a volte la laurea, per quanto possa sembrare paradossale, può diventare un peso nella ricerca di alcune mansioni. Respinti al primo tentativo, si corre ai ripari, quindi nelle 3 settimane, cercando un posto da segretaria. Quando va bene, le agenzie prospettano un paio di posizioni aperte, ma solo di qualche mese, con la sostituzione maternità che fa la parte del leone. Alla fine, per chiudere, per riassumere questa inchiesta condotta da Elena Bonanni, il lavoro trovato è stato di una sostituzione maternità di 4 mesi in uno studio legale, sostanzialmente un lavoro di segreteria non particolarmente specializzata. Questa la segnalazione appunto sulla decrescita, ma questa volta dei posti di lavoro, e l'inchiesta che viene raccontata sull'Espresso. Il tempo a nostra disposizione è oramai agli sgoccioli, allora io vi ringrazio naturalmente Filippo Aureggi questa mattina in regia, grazie come sempre ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. Vi ricordo che se volete scriverci potete farlo a questo indirizzo, a questa mail, magazine24@radio24.it, e se invece volete informazioni sui nostri programmi c'è il sito www.radio24.it. Magazine 24 ritorna domani, buona giornata a tutti.